E famo sta cazzo di intro. Orb, DJ Nerbo, Bunker Studio. Stiamo lerci, fatti, alcolizzati e fumati, porco Giuda. Siamo davvero lerci, siamo fattissimi, guardiamo troppo avanti. Guarda avanti pure te, frate. Yeah. E facci spazio, che noi siamo tanti. O paghi il dazio, o qui non si va avanti. E già, se non ce sai fare, guarda non ci incanti, no, non ci puoi fermare, perché guardiamo avanti. E guarda, lascia stare, è come l'altra volta, la mia vita dalle pare è già sepolta. Ogni giorno sto in cerca de una svolta, de voglia de emerge, guarda ce n'ho molta. E lascio perdere le cose del passato, proseguo nelle strade per assolvere al mio fato. Credo nel destino ma non credo nel futuro, proseguo come in una steppa tenendo sempre duro. Lo faccio sempre al core perché sono speranzoso che il futuro in cui non credo diventi favoloso. Spingo la mia roba affinché vi entri in testa, a bestia come quando mi drogavo ad ogni festa. Sentive queste cose e ciò che a me vi allaccia. Senti testo Orb, sto tipo che vi taccia. Ma lo so sentì che mare le cazzate, Orb è bravo solo a fare pagliacciate. E facce spazio, che noi siamo tanti. O paghi il dazio, o qui non se va avanti. E già, se non ce sai fare, guarda non ci incanti, no, non ci puoi fermare, perché guardiamo avanti. Non penso al passato e se ci penso io mi sfondo. De canne me la giro come un vagabondo. Fumo tutto il giorno e la notte non vi è sonno. Faccio casino pure se l'altri non lo vanno. E non mi sta bene, più di qualche legge. Non voglio fa la parte della pecora in un gregge. Sarà che da bambino ho bevuto il detersivo. C'ho un caratterino e sono pure sovversivo. E guarda te lo dico pure se non sono esperto. È meglio pensa adesso che il futuro è qua già incerto. Non pensare a ciò che è fatto, ma quello che è da fare. Che la scusa poi c'è sempre per lasciarsi andare. Ma però sta attento a non esagerare, se non vuoi che poi siano cazzi da cagare. Sgatte stronzate, non te devi ostinare, se no poi sempre tutto da rifare. E facce spazio, che noi siamo tanti. O paghi il dazio, o qui non se va avanti. E già, se non ce sai fare, guarda non ci incanti, no, non ci puoi fermare, perché guardiamo avanti. Ecco un'altra volta che ci riso cascato, non ho guardato avanti e mi so fermato. Sarà anche perché ogni giorno sto fumato, ma mi so scordato ciò che prima ho pensato. Ed eccomi qua che mi so ritrovato a ripensare a ciò che mi so scordato. Ma se ciò che fumo lo brucio per scordare, almeno di questo non mi posso lamentare. E per questo non mi lamento, ma tu guarda avanti e stai attento. Prendi nota bene di ogni mio passo che faccio quando rappo e mentre collasso. De ispirazione sto scoppiando, guarda avanti sto decollando. Ora sto volando in alta quota, ridendo della gente che ha la testa vuota. E facce spazio, che noi siamo tanti. O paghi il dazio, o qui non se va avanti. E già, se non ce sai fare, guarda non ci incanti, no, non ci puoi fermare, perché guardiamo avanti.